Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non capita spesso, per fortuna, di dover commentare errori imbarazzanti come quelli commessi ieri sera a Monaco dal prode arbitro norvegese Ovrebo. Anzi, non dovrebbe capitare mai. E non c'è dubbio che la rabbia della Fiorentina e dei fiorentini per una volta sia pienamente legittima, alla luce anche di precedenti, di quello che accade normalmente in Coppa Campioni da un punto di vista arbitrale. Che ne dice il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli? Beh, intanto buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Beh, tutto giusto, nel senso che Ovrebo purtroppo aveva anche dei precedenti, questa volta lo deve un po' dividere con il suo collaboratore. Però comunque trattasi di un errore da matita rossa, ma pesantemente, che pesantemente condiziona. Già naturalmente si sono scatenati i complottisti di ogni risma, perché una qualificazione del Bayern di Monaco a spese di una squadra italiana ha e avrebbe un'influenza pesante sul coefficiente, che poi andrebbe a garantire più o meno posti nelle successive manifestazioni. Questo può essere sempre vero nella mente di chi pensa sempre male, in ogni caso siamo di fronte a un errore veramente colossale. Io credo onestamente, nel momento in cui l'arbitro della partita tra la Francia e l'Irlanda non vide il fallo di mano di Henry per il gol di Gallas e poi va e viene di fatto gratificato perché andrà ad arbitrare ai mondiali, e Ovrebo, dopo quello che ha combinato nella partita tra Chelsea e Barcellona, rimane comunque sulla scena nazionale, mondiale, internazionale, nonostante, devo dire, anche un girovita sinceramente prominente. Sì. Ecco, insomma, tutto questo gettano un bel velo d'ombra, un brutto velo d'ombra anche sulla Champions League. Sì, è come se non ci fosse una classifica di aggiornamento di rendimento, no? rispetto a questa gente. Di ieri sera. Proprio quello che non ha visto il mani di Henry, cioè Hansson, lo svedese, ha arbitrato l'altra partita di ieri sera di Champions, quella tra Porto e Arsenal. E tra l'altro l'Arsenal si è molto lamentato di lui, secondo me avendo ben poca ragione. Però vuoi raccontare tu perché? Ma guarda, il gol è comico, sinceramente, perché io credo che non si prendano più neanche nelle partitine tra amici, mai di sicuro, perché in quelle ci si ammazza piuttosto che prendere un gol così, ma neanche quelle amatoriali, dilettantesche, perché è un calcio di punizione a due in area che scaturisce già da una follia tra Sol Campbell e Fabianski, che è il portiere dell'Arsenal, con Fabianski che la prende di mano, con Campbell che gliela passa chiaramente indietro con il piatto. E vabbè, diciamo che ha fatto un errore, ma che nessun giocatore dell'Arsenal andasse immediatamente sul pallone per impedire una battuta rapida, questo è un errore da prima elementare. Quello di cui si lamenta l'Arsenal è che la posizione di Hansson potesse essere di intralcio, però poi in realtà, riguardandole bene le immagini, non c'è un giocatore dell'Arsenal che va come un assatanato per coprire la palla. Sì, secondo me si sono proprio dimenticati. Certo, ma comunque è vero che se Hansson sposta leggermente forse anche il portiere dicendogli di tornare al suo posto, perché forse stava un po' protestando, sia pure in termini molto civili, e ha un atteggiamento tipo nessuno si mette sul pallone, ma nessuno si mette sul pallone cosa? Giovanotto, io mi metto qua e adesso facciamo la barriera, no? Esatto. E poi dopo lei fischia e quando fischia noi saremo a 9,15 metri. Cioè, un po', cioè l'Arsenal, quando parlavo l'altro giorno anche di personalità, di ingenuità, certo. Anche se poi da quelle parti lì c'era Sol Campbell, che è uno che forse avrebbe anche già dovuto terminare la carriera, quindi di esperienza comunque ne ha tantissima in queste situazioni, dovrebbe farla valere. Però è tutto vero finché non ci passi, nel senso che in quegli istanti lì, cioè anch'io stamattina mi sono dimenticato di tirare il freno a mano dell'auto, che è la roba più normale quando uno parcheggia, però in quel momento mi sono dimenticato e per fortuna non ho combinato danni. È andata bene, a differenza di come è andata ieri sera a Monaco. Allora, gli episodi sono troppo noti per tornare a esaminarli in dettaglio, o più tardi, anzi probabilmente lo vorranno gli ascoltatori. Però l'errore finale dell'assistente è inammissibile. Io ho qualche riserva sul fatto che sia così ingiusta l'espulsione di Gobbi, perché in campo europeo in genere i gomiti alti si pagano. No? Guarda Gigi, io vado anche un po' più, vado anche oltre. Secondo me l'espulsione è giusta, nel senso che il fatto è rubricabile come condotta violenta, Gobbi si gira completamente, cioè non guarda più, e questa però non è un'attenuante, perché anzi può diventare un aggravante. Nella testa di Ovrebbo è diventato un aggravante, perché è anche lì con consultazione del guardalinea. Sì, più guardalinea di lui. Il contatto è proditorio, secondo me è anche eccessivo, e la somma di tutto questo in campo internazionale la paga. Il campo internazionale fa così, cioè esatto, non siamo abituati in Italia a avere questo metro. È stato espulso per meno Pazzini, no? In una partita dell'Italia, eccetera. Quello ci stava, però non solo c'è un'espulsione più grave ancora, più netta, subito dopo, che è quella di Klose, sì. Ma se vogliamo esagerare un pochino, io penso che anche l'entrata del primo tempo su Montolivo fosse assai più da rosso che da giallo, sì, perché sì. Comunque se tu vedi l'entrata, a parte che le cose si vedono a velocità normale, no? E non c'è bisogno di replay per valutare, ma c'è lo zompo di questo, sì, sì. Cioè questo entra a piedi uniti e col balzo. Sono d'accordo. Dato che gli fa anche male, perché oggettivamente gli fa male, lo azzoppa per tutta la partita, o comunque lo limita per tutta sì, la partita. Riduce le potenzialità. Secondo me, se il signor Ovrebbo cominciava con un cartellino rosso lì, probabilmente tutto si calmava. Sì, sì. Se ci aggiungiamo la comicità della decisione a fine primo tempo, e cioè di non lasciar correre per una frazione di secondo un fischio, vedendo dove va la palla e lasciando che Gomez. Segni, vuol dire veramente che è scarso. Sì, ci sono molte prove, troppe prove, troppi indizi che fanno non solo delle prove, qui siamo proprio a prove schiaccianti. Insomma, questo signore deve godersi non la pensione, perché comunque è ancora giovane. Sì, ha 43 anni. Però deve fare altro. Poi ripeto, ha una mole, e, sì. Cioè che insomma. Sinceramente, un arbitro con la pancia non è un bel vedere, sinceramente, e adesso a questo punto non è un bel. Io credo che un arbitro così, dopo un errore così clamoroso e davanti a tutta Europa come quello di ieri sera, non sia veramente più proponibile, e quindi l'UEFA credo che deciderà in questo senso. Bene o male, comunque la prima giornata di questi ottavi di finale, a metà, perché l'altra giornata sarà la settimana prossima, è andata in archivio. Come, Fabio? Con che numeri, con che risultati, a parte le due sconfitte delle italiane? Beh, molti gol, nel senso che la media è di 3 gol a partita, sconfitta tra virgolette lieve numericamente, ma pesante per come è maturata per il Real Madrid. Nessuna squadra ha dato più di un gol di scarto all'avversaria, quindi a livello teorico tutti gli ottavi di finale, sono tutte le gare di ritorno sono ancora aperte. È chiaro che c'è una squadra che ha perso in casa e con gli avversari che hanno fatto 3 gol, e questa è la partita tra Milan e Manchester United. Però anche se la storia dice che a Old Trafford nessuno ha mai vinto con 2 gol di scarto, sì, è anche vero che il Manchester United non aveva mai vinto a Milano, quindi insomma sì. Può sempre succedere tutto. Non ha nemmeno mai fatto gol, no? Nemmeno segnato. Esatto. E ne ha 3. Sì. Senti, scrive Marca, il quotidiano sportivo di Madrid, dice il fratello scarso di Kakà è riapparso quando sì. In campo. Il fratello scarso di Kakà sarebbe Kakà, che effettivamente quest'anno, se non la becca mai, la becca poco. Insomma. Sì, lui ha anche un fratello che non si offenderà se viene definito più scarso di Kakà, nel senso che Di Gao non ha una carriera minimamente paragonabile a quella del fratello bravo. Sì, Marca ci sta andando un po' pesante, però io credo che adesso comincino a essere un po' troppi mesi nei quali Kakà non è un fattore, e non importa il fatto che sia stato pagato una cifra spropositata, importa il fatto che effettivamente non riesce ad avere un peso in questa squadra. Ora, che sia colpa del sistema di gioco di Pellegrini io ho qualche dubbio, che sia colpa della pubalgia pure, perché la pubalgia poi è un qualcosa che fai fatica anche a spiegare, e fanno fatica anche a spiegare i medici quando glielo chiediamo su che tipo di impatto possa avere sul rendimento di un giocatore. Detto questo, il rendimento di Kakà è molto sotto la sufficienza, è molto sotto quello che tutti si aspettano, e in questo momento è chiaro che se la squadra per una volta non ha vinto, è lui ad essere il primo imputato. Il Real Madrid non ha giocato una buona partita a Lione, stamattina su Marca Ronaldo parla di vinceremo 3-0 al ritorno, e io credo che questo sia tranquillamente possibile, perché il Real Madrid rimane una delle favorite per la conquista della Champions. Però in questo momento Kakà è un giocatore normalissimo, un giocatore che potrebbe anche non trovare posto in squadra se continuasse a giocare così. Giustissimo. Da Fabrizio, da Sesto Fiorentino, domanda di conoscere quali sono questi precedenti di Ovrebbo cui ho fatto cenno prima. ci arriviamo presto, caro Fabrizio. Finiamo prima il discorso europeo complessivo. Hai detto grande equilibrio tutto sommato, anche se una delle quattro, cioè il Milan, ha perso in casa. Sì. Non più di un gol di scarto, tre gol, eccetera. Quindi direi che quantitativamente, al di là dell'errore deliranante di quest'arbitro norvegese, non è partita male. Qualitativamente, dire che si siano viste grandi partite, si può discutere, mi sembra. Sì, si può discutere, però devo dirti, il primo tempo del Milan, parte del secondo tempo del Manchester United, qualcosa anche di Bayern Fiorentina, ho visto anche un po' Porto Arsenal, qualche momento diciamo che per trovare una buona partita devi prenderne 3-4 e metterle tutte insieme. Devi fare un puzzle, no? Devi fare un po' un puzzle. Però insomma, diciamo che qualcosina si è visto. A mio modo di vedere, quello che ha detto queste gare d'andata degli ottavi sono che è tornata decisiva la fascia. Cioè è tornata decisiva, è tornata importante, se non decisiva, il lavoro dei giocatori di fascia. Degli esterni. Robben ha fatto delle cose. Soprattutto importanti. Ad anno delle italiane, no? Direi. Soprattutto ad anno delle italiane, perché poi Valencia, che non è uno che ha fatto grandi danni agli avversari nella Premier League, cioè è comunque un buon giocatore, non è evidentemente Cristiano Ronaldo, però nel secondo tempo qualche bel pallone l'ha messo dentro, ne ha messo dentro uno tesissimo sul quale Rune non ha creduto, altrimenti avrei potuto fare un altro gol, e lo stesso Varela del Porto ieri ha dato qualche bel grattacapo sulla fascia sinistra difensiva dell'Arsenal, quindi senza contare, credo che 3-4 spunti di positività dei giocatori di fascia ci siano stati. Noi chiudiamo con l'Europa League, perché stasera alle 7 ad Amsterdam tocca la Juventus sul campo dell'Ajax, partita riandata ovviamente, e due ore più tardi ad Atene tocca alla Roma sul campo del Panathinaikos. È ovvio che la ribalta è minore, è ovvio che c'è molta meno attesa, io credo, da parte dei tifosi stessi di Juventus e Roma, che hanno in testa ben altre classifiche adesso, credo che gli interessi molto di più il campionato, però rimane pur sempre un trofeo europeo, insomma. No, è un trofeo europeo, un trofeo che potrebbe avere comunque nell'Albo d'Oro un vincitore nobile, perché insomma ci sono 5-6 squadre di grande caratura, almeno di grande nome. Non è più il caso dell'Ajax, nel senso che delle due partite è più pericolosa quella della Roma, sia da un punto di vista ambientale che dal punto di vista del fatto che la Roma sta infilando una serie infinita di risultati utili consecutivi che ovviamente, non me ne vogliono i tifosi della Roma, prima o poi potrebbe anche interrompersi. La Roma ha più in testa il campionato, la Juventus pure. È comunque una ribalta da non trascurare, la Juventus sa che è una coppa di ripiego che le deriva dalla sciagurata nottata di Monaco, Torino contro il Bayern di Monaco. La Juve sa anche che non fu una serata casuale, perché non è che poi da lì la Juventus ha ricominciato una lunga cavalcata. La curiosità è che quel Bayern che da Torino aveva spiccato il lancio per un grande volo anche in campionato, si sia inceppato misteriosamente ieri sera di fronte alla Fiorentina. Sì. Per fortuna c'è la partita di ritorno. Grazie Fabio. A tutti voi, buongiorno a tutti, grazie Gigi. Contro la Fiorentina è stata commessa una nefandezza evidente. Questo è il commento di Giancarlo Abete, presidente della federazione, che poi ha continuato nel dettaglio dicendo: è stato un errore molto grave, soprattutto in questa fase a eliminazione diretta. La Fiorentina è stata chiaramente penalizzata. È vero che degli errori ci possono stare, ma è anche vero che quelli di ieri sono stati troppo evidenti. Il fuorigioco non era una questione di centimetri, ma di metri. Mi sembra evidente che c'era una guida arbitrale non all'altezza della partita. Ripeto, questo è il commento del presidente federale Giancarlo Abete. Alessandro ha chiamato da Chieti, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei rimarcare un paio di cose. L'arbitraggio è stato scandaloso, in quanto non è che quest'arbitro ha sbagliato soltanto da un lato. Se il Bayern avesse sbagliato il rigore, cosa sarebbe successo? Non si era mai visto annullare un gol per dare un rigore, neanche ammonire il difensore. Si era già visto per la verità, perché non è l'unico Ovrebo che non è stato l'unico a commettere l'errore di lasciar passare quella frazione di secondo per capire dove va il pallone, dove tra l'altro ha commesso una Coppa Campioni. E quasi impossibile. Ma impossibile no, perché ne abbiamo viste anche i Coppa Campioni. Certamente l'errore di ieri sera è grave, perché ieri sera ha sbagliato tutti su quell'azione. Sbaglia Frey perché perde un pallone in uscita che non deve perdere, perché si tuffa male in maniera troppo precipitosa. Sbaglia Kroldrup perché bastava un tagliafuori più leggero su Ribéry e non era il caso di abbatterlo con l'anca. Sbaglia chiaramente l'arbitro a non lasciar correre l'azione e quindi a non dare il gol a Gomez. Una volta che dà il rigore sbaglia a non espellere Kroldrup, quindi si immagini un po' che bel momentino è stato quel 47esimo del primo tempo. Dopodiché, insisto, per me aveva già sbagliato nel primo tempo a non cacciare quello che è entrato a zompo sul piede di Montolivo, a zompo, e l'ha zoppato. E poi tutte tutti gli errori, le nefandezze, come dice Abete, della ripresa, non c'è dubbio. Alessandro, grazie. Andiamo in provincia di Pavia da Davide, buongiorno. Buongiorno Garanzini, anch'io volevo andare un attimo controcorrente, più che altro per criticare un pochino Abete. È vero che l'arbitro di ieri sera ha commesso una grandissima nefandezza nel non annullare il gol della Fiorentina, però la colpa è sostanzialmente del guardialine, sì. Non è del Bayern, scusate. La colpa sostanzialmente del guardialine, l'arbitro ha qualche responsabilità perché forse poteva vederlo, ma il guardialine è stato scandaloso, l'arbitro purtroppo ha dato retta al guardialine. Per il resto le decisioni possono essere contrastanti, ma non così palesi, se non giustamente l'espulsione. Però il signor Abete si dimentica di dire che il nostro arbitro internazionale proprio domenica sera ha commesso gli stessi errori di questo arbitro, ma non l'ho sentito parlare all'incontrario, perché due giocatori dell'Inter andavano espulsi per lo stesso fallo per cui andava espulso il giocatore del Bayern. C'è stata una gomitata di un giocatore del Napoli che ha ammonito, che l'ha solo ammonito e non lo ha espulso come dovrebbe essere in campo internazionale. Il fallo di mano è paragonabile al fallo di mano in cui questo arbitro non l'ha dato l'anno scorso al Chelsea, che si è molto lamentato di quel fallo di mano. Per cui la categoria arbitrale purtroppo è questa in tutto il mondo. Sì, anche la categoria degli ascoltatori ogni tanto è discutibile. Per il mio soprattutto quella dei tifosi incrociati. Davide, non se ne abbia male, però... Se Rosetti ha commesso gli errori sabato sera sono errori che vanno e vengono da parte di un arbitro che ha oltre che una buona reputazione nazionale, una grande reputazione internazionale, visto che è stato selezionato per tutte le più recenti manifestazioni a rappresentare l'Italia, compreso il mondiale prossimo 21. Ovrebo viene da una serie di disavventure che lo rendono discretamente indifendibile. Dopodiché, ripeto, il gioco del tifo trasversale è un giochino che noi pratichiamo volentieri, che per fortuna in Coppa è sconosciuto. Da qui lo stupore per quanto è accaduto ieri sera, che peraltro ha avuto reazioni molto più pacate e non così degenerative come questo ultimo esempio. Un po' di posta, scrive Roberto Corti, e ovviamente retribuire all'arbitro la sconfitta della Fiorentina, ma con quel Bayern molto dimesso la Fiorentina ha fatto poco per portare a casa la vittoria e occasioni come queste in Coppa capitano di rado. Ritengo comunque vergognoso che un pachiderma, effettivamente la buona definizione, come quello, continui a arbitrare in Coppa visti alcuni precedenti. Il fatto però che il designatore arbitrale sia tedesco forse può aver influito sulla scelta di quell'ippopotamo, continua a infierire Roberto Corti. In effetti la prima cosa imbarazzante, si diceva anche prima con Fabio Tavelli, la stazza e la scarsa come mobilità rispetto alla stazza è ancora civile, però non è questo granché. Dario Barbieri scrive da San Polo d'Enza: ma Ovrebbo, per arbitrare in Champions, ha per caso vinto un appalto della Protezione Civile? Stefano da Brescia scrive: aveva ragione il suo amico Beccantini, che a dicembre aveva votato al terzo posto nella classifica sua del Pallone d'Oro Rooney, perché quando la conferma scrive per l'appunto Stefano che quando si trattò lo scorso anno per ragioni di bilancio di scegliere tra Ronaldo e Rooney, Ferguson non ebbe dubbi e scelse giustamente di tenersi Rooney. Mi piacerebbe sapere, scrive Massimo Antonini, che ne pensa del fatto che la UEFA ha immediatamente censurato qualunque video su YouTube inerente alle prestazioni arbitrali di ieri sera a Monaco, nonché parimenti censurato nel proprio sito tutti i relativi commenti espressi dai protagonisti intervistati nel dopo gara. Non posso accontentarla, Massimo, perché YouTube per me è più o meno come il Festival di Sanremo, cioè non è proprio il mio genere. Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io ieri sera ho visto la partita, a quanto pare quest'arbitro abbia sbagliato. Ma non è che noi molte volte con le nostre squadre all'estero paghiamo, pagano le società o i giocatori che fanno i cascamorti o esultano come quel rigore dato domenica a quel giocatore col numero 10 che io rispetto, che era fuori un metro, ci risiamo, che ha esultato. Ci risiamo con la, no, con, come con l'ascoltatore di prima, cioè le nostre piccole miserie della domenica le dobbiamo tirare fino al giovedì? Parliamo di ieri sera, Angelo, no? Sì, sì, ma... Cioè, ma paghiamo noi cosa? Abbiamo visto che... Ma mi dica cosa deve pagare... Scusi, se un giocatore si chiama Klose, deve essere espulso a un quarto d'ora alla fine, ma espulso, ma tutta la vita per un'entrata, non dico criminale, ma quasi, su un avversario. Oltretutto, avendo l'arbitro appena espulso un fiorentino, secondo me giustamente, Gobbi, però insomma, comunque, con un'espulsione che si poteva anche discutere. Invece quella è indiscutibile. Non caccia quell'uomo, quello stesso uomo un quarto d'ora dopo è fermo al limite dell'area piccola avversaria, cioè non sta incrociando, non sta scattando in avanti o all'indietro e quindi c'è il problema dell'allineamento, del vedere o non vedere, è fermo, piantato lì come un palo e da un quarto d'ora dovrebbe essere sotto la doccia. Questo fa gol di testa, la Fiorentina perde 2-1 e noi stiamo a paragonare a quello che il numero 10 ha fatto domenica scorsa. Cioè, quello di ieri sera è uno scandalo arbitrale in piena regola, e basta. Tutto il resto saranno altri episodi, saranno altri discorsi. Ne abbiamo parlato lunedì, ne abbiamo parlato martedì, però che contestare quello di ieri. Oltretutto ci sono anche dei precedenti anti-italiani di questo arbitro. Io non credo di essere un nazionalista a oltranza, e chi mi segue lo sa, però ci sono dei precedenti, cioè questo annullò nell'ultimo Italia-Romania agli europei, annullò un gol a Toni buonissimo, strabuono, ammise il proprio errore, perché poi quando rivide i filmati e gli rimise sotto il naso l'UEFA, ammise il proprio errore e disse testualmente: ho commesso un errore gravissimo, e l'UEFA, cioè, e non gli bastarono le scuse, perché l'UEFA lo tagliò fuori da quella designazione, cioè dalle successive designazioni. Adesso era stato preselezionato per il mondiale, la FIFA fortunatamente ce ne ha liberati, per cui non lo vedremo al mondiale, e purtroppo l'ha visto ieri sera la Fiorentina, ha pagato l'ultimo prezzo di questo incapace, perché non credo ci sia un'altra definizione per lui e peggio ancora per il suo assistente di destra. Senza se e senza ma, senza cosa succede in Italia la domenica di quel numero 10 o in quell'angolo o quella squadra o quei due che l'altra sera sono entrati male, come diceva l'ascoltatore di Pavia, che c'entra? Parliamo di ieri sera, visto che stiamo parlando di ieri sera. Salvo, Catania, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Innanzitutto grazie per l'opportunità e complimenti per la trasmissione. Io volevo dire solamente, per chi magari non so, ricorda, l'arbitro di Bayer Fiorentina è lo stesso di Irlanda Francia, quindi no, dico, non è assolutamente lo stesso di Irlanda Francia. Ah no, salvo. Ecco, allora grazie della compagnia. Comunque. No, quello di Francia Irlanda era l'arbitro dell'Arsenal dell'altra partita. Era l'arbitro di Porto di Porto Arsenal, non ha fatto niente di grave. Vabbè, no, e poi... comunque volevo chiederle, pensa che non paghiamo una scarsa concentrazione in Europa? Concentrazione? Sì. Sì, penso che non paghiamo una scarsa, cioè che godiamo di poco credito in Europa, può darsi, può essere, non, è la prima volta comunque in tempi abbastanza recenti, perché non mi sembra che si possa, insomma, che ci si possa lamentare più di tanto di trattamenti ricevuti in Europa negli ultimi anni, nelle ultime stagioni. Anzi, se c'è una cosa che in genere si guarda volentieri, si segue volentieri al di là del tifo e dell'appartenenza e dei colori sociali, è proprio questa manifestazione che in genere è ben giocata, abbastanza ben giocata e molto ben diretta, nel senso che non sono rari questi casi, questi problemi, soprattutto di questa gravità. Quindi è anche per questo che c'è sta sorpresa negativa. Gabriele, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Come diceva il Trapp, mi sembra, sono perfettamente d'accordo con lei a metà. No, nel senso che il gol è drammatico. Ma anche l'espulsione, secondo me, quella del Viola, è stata una via di mezzo fra il giallo e il rosso, perché bene o male lui ha fatto un'entrata che in modo tale che doveva poi piroettare alla fine della sua entrata. Certo, aveva le braccia alte, non lo metto in dubbio, però non è così evidente, ecco, sotto questo aspetto. Però guardi che in Europa le braccia alte, e soprattutto sì, col gomito messo in posizione da gomitata, che poi la gomitata parte o meno non è semplicissimo, certo, da vedere, le braccia messe così in Europa si pagano, in genere. Comunque in quelle due occasioni è stato il guardalinee, perché anche nell'occasione, certo, dell'espulsione l'arbitro lì, certo, lì ha aspettato, forse gli dava un giallo, poi ha aspettato a estrarre, ha parlato al guardalinee via la radio molto probabilmente. E poi una cosa importante, secondo me, che secondo me purtroppo si guarda molto per le espulsioni, si guarda molto di più al gomito che alle entrate truffaldine come sono state fatte nei confronti di Viola, perché lì si spaccano le gambe, no, il labbro. Verissimo, sono completamente d'accordo. Si spaccano veramente le gambe. Io, capito? Sono d'accordo con lei per intero, no, a metà, su questo. No, ma nel senso, è vero, cioè Montolivo comunque, Montolivo ha giocato una partita a scartamento ridotto perché è stato azzoppato da e poi alla fine è toccato uscire, certo, è andata benissimo a Kroldrup, che non ci ha lasciato un perno, ecco, quella secondo me è stata sull'entrata di Klose, che è da espulsione diretta, immediata, senza pensarci nemmeno un attimo. Tra l'altro in quel caso è scarso Ovrebo, che non valuta la gravità, ma è scarso, io dico scarso perché voglio restare alla migliore delle ipotesi, è scarso Ovrebo, che è l'arbitro e che è a una ventina di metri, ma è di nuovo scarso, sempre la migliore ipotesi, il guardalinea, che ce l'ha abbastanza vicina questa sequenza. Allora perché interviene sul gomito alto, ripeto, secondo me giustamente o abbastanza giustamente, e perché non fa una piega invece su un'entrata a piede teso che può costare un perone? Perché è scarso, sempre la migliore ipotesi. Gabriele, grazie, c'è un altro fiorentino, penso che oggi non sarà l'ultimo, tra l'altro con piacere. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. La chiamo per andare un po' in controtendenza, perché a parte mi sembra un po' inutile commentare, insomma, le prodezze dell'arbitro e della terna, però ecco, io ho sentito i vari commenti di Andrea Della Valle, di Diego Della Valle, del dopopartita dei giocatori, e nei giorni, diciamo, dei Mourinho Show e degli Zamparini Show, io ieri sera mi sono per la prima volta sentito orgoglioso di essere fiorentino, perché sono stati di una pacatezza, sembrava che il torto l'avessero quasi subito il Bayern, no? E qui chiamavo solamente per sentire lei cosa ne pensava e se finalmente abbiamo trovato, diciamo, delle persone a Firenze di cui possiamo fieri, ecco, dopo certi cori. Grazie. Sì, nel caso di ieri sera senza dubbio, anche perché io credo agevolati da una cosa, no, non voglio minimizzare, ma agevolati dal fatto che una roba così ti lascia senza parole, forse non Mourinho, insomma, però una persona normale secondo me la lascia senza parole, proprio ti stende, perché non capisci di non aver difesa contro un torto di quelle proporzioni. È simpatico Tullio da Milano che mi scrive: la differenza tra YouTube e Sanremo è che nel primo caso lei può scegliere se guardare porcherie o cose interessanti, nel secondo caso no. Non è vero Tullio, nel secondo caso so già che trattasi di porcherie, quindi me ne astengo in partenza. Sorry a Tullio, ma già che ci siamo, se vogliamo mettere i puntini sugli mettiamoli. Il ripasso di storia, che ultimamente l'avrete notato, è un ripasso della storia del nostro campionato in modo particolare, e difatti è ancora più seguito, perché è ancora più curioso, più interessante, più suggestivo, direi. Il 18 febbraio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 febbraio 1962. Il Palermo espugna il Comunale di Torino superando la Juventus per 4-2. Protagonista dell'Esploit rosanero con una doppietta è un italo-brasiliano semisconosciuto, la mezzala ex Palmeiras José Ferdinando Puglia, detto Fernando. Il gol del 4-2 finale porta invece la firma di Tarcisio Burnic alla prima rete in Serie A. La prestazione di Fernando convincerà i dirigenti della Juventus a portarlo a Torino in prova a fine campionato per la Coppa Italia, ma l'avventura in bianconero del brasiliano durerà solo una partita. Tornerà a Palermo, quindi chiuderà la carriera a Bari. Anche quel gol di Burnic, tra l'altro quel debutto di Burnic con la maglia Palermo, convinse poi la Juventus a ingaggiarlo l'anno successivo, ma insomma, non fu un'avventura fortunata, e lo fu per l'Inter, che poi invece intravide le qualità di quel giocatore e l'anno successivo ancora se lo portò a Milano. Tocca a Giacomo da Prato, buongiorno. Buongiorno Caranzini, una domanda su Juventus Ajax. Premetto che non sono un esperto, un intenditore del calcio, quindi mi limito a prendere ripetizioni gratuite da voi. Visto che la Juventus non è totalmente rigenerata da Zaccheroni e dalle sue vicissitudini, volevo sapere, visto che anche l'Ajax si è messa un po' meglio in classifica, anche come quantitativo di reti fatte, volevo sapere un attimino, secondo me non le farà una partita affatto facile con la Juventus, ecco. Cosa ne pensava lei? Ne penso poco Giacomo, perché il calcio olandese è un po' sparito dai radar in ambito internazionale di club, mentre è molto presente in ambito di nazionale, insomma ne sappiamo anche qualcosa recentemente, gli europei eccetera, e l'Olanda è molto quotata anche per questa edizione prossima, avventura dei mondiali, e tra l'altro è un incrocio possibile per l'Italia a partire dagli ottavi in avanti, sperabilmente nei quarti, ma non è da escludere gli ottavi. Insomma, quello è un ambito in cui il calcio olandese continua a essere al livello, insomma, che si ricorda perlomeno agli anni 70 in avanti. In ambito di club è molto molto decaduto. L'Ajax in particolare è diventata negli ultimi anni un vivaio succursale, nel senso che continua a crescere talenti, anche se non tutte le covate poi sono delle più felici, continua a crescere talenti, ma di questi talenti poi viene espropriata presto, quindi non le so dire, perché in questo momento, anzi, è un motivo di curiosità e di interesse in più, no? Per stasera vedere a che punto sono i famosi lancieri. Maurizio Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, mi chiamo Maurizio. Senta, volevo esprimere il mio rammarico veramente ai massimi livelli per quello che è successo ieri. Sono tifoso interista, ma posso immaginare che cosa possono aver provato i tifosi, ma prima di tutto chiaramente chi era in campo a vedere un episodio di quel tipo lì. Io ho fatto l'arbitro per 2 anni abbastanza bene, ho smesso solo per questioni fisiche. Secondo me chi fa un errore di quel tipo, parlo del Guardanini in particolare sull'ultimo episodio, i motivi sono solo due: o è veramente manifesta malafede o manifesta incapacità. Sì. Allora, sì, perché manifesta... è fermo. Perché è fermo Toni, no? Cioè, esatto. Io volevo portare a riferimento un episodio che invece è successo all'Inter, ma a favore dell'Inter, per non andare di pari passo con gli altri, con alcuni interventi che ci erano stati prima, tipo quello, l'esempio di Maicon a Siena, no? Sciaguratamente, anche quello in fuorigioco, si ricorda l'anno scorso, mi pare. No, l'anno scorso. Era in fuorigioco in 5, ha tirato a pari e dispari, ha segnato il più in fuorigioco che era Maicon. Esatto, lì non per scusare il guardaline, ma perlomeno c'è stato un minimo di incrocio. Sì, difetto. È stato un palo clamoroso. Lei ha ragione. E quindi arrivo al punto. Quando hai 40 anni, fai il guardaline, tu arrivi da un'esperienza di almeno 20-25 anni di arbitraggio. Se non stai valutare che quello è fuori gioco, allora sono malafede. Sì, ma io, ma malafede oppure sì. Antitalianità, come ha detto lei. Antitalianità che il signor Orvevo manifestò già, senza peraltro prendere nessuna decisione che fece pendere l'ago della bilancia. Parlo di Inter-Liverpool di 2 anni fa. Burdisso. No, quella ci stava, ma era proprio l'atteggiamento, no? Cioè sì. non dare il vantaggio quando c'era il fallo e la palla però era ancora in possesso. Sì, nulla. Cioè, proprio non ha mai regalato niente. Certo. Era solo una questione politica. Sì, non che un arbitro debba regalare, intendiamoci, ma ha sempre dato la sensazione di una, come minimo, vaga ostilità o di una vaga non simpatia. Questo è verissimo. Poi non tanto sull'episodio di quell'Inter-Liverpool, perché l'espulsione di Burdisso ci stava. È vero però che l'espulsione di Burdisso ci stava, ma con quel col parametro di ieri sera, no? Oppure col parametro di Burdisso, come fa Klose a restare in campo? Cioè un arbitro dovrebbe, soprattutto un arbitro internazionale, di quella dimensione dovrebbe avere una coerenza sua, no? Si dovrebbe sapere che quello è un arbitro, che ne so, severo piuttosto che tollerante, piuttosto che questo o che quell'altro. E invece ho l'impressione che effettivamente Ovrebo e il suo braccio destro, il suo guardalinea, la sua bandierina di destra, insomma, qualche piccolo pregiudizio l'avessero. Io dico l'avessero perché spero di poterne parlare al passato, di tutti e due. Comunque lei ha ragione, c'è un lampione in area, perché Klose, in gergo calcistico arbitrale, Klose ieri sera è un lampione, è l'impiantato, ed è tra l'altro l'impiantato a un metro dalla linea dell'area piccola, per cui hai anche quel riferimento lì. Cioè, se non sai valutare un fuorigioco rispetto a un lampione e devi davvero cambiare mestiere, speriamo glielo facciano seriamente cambiare. Francesco Brescia, buongiorno. Pronto? Dica, Francesco. Sì, volevo parlare sempre del fatto della Fiorentina, degli arbitri. Si parla sempre degli sbagli che fanno e tutto, ma non riesco a capire come mai decidono di mettere una moviola in campo per le partite più importanti, tipo Champions League o Mondiali, perché se si arriva a questo punto che uno può perdere una partita per uno sbaglio di un guardalinea o di un arbitro, per me non è giusto, con tutto l'impegno che dà una squadra e tutto quello che c'è dietro. Ma certo, Francesco, ma la moviola poi in che casi si usa? C'è il dubbio, c'è un po' ritorno, vabbè, che il dubbio qua lo si vedeva. Quanti episodi dubbi ci sono secondo lei in una partita, perlomeno visti dalle rispettive controparti? Gli episodi da gol, io dico solo episodi da gol, o quando è proprio una palla, dicono che è entrata in rete dopo. Ah, no, ma su questo. O su una palla o su un fuorigioco, almeno una moviola in campo che abbia l'arbitro, perché. In una partita un po' tirata, secondo lei quanti fuorigioco incerti ci possono essere dall'una all'altra parte? Fuorigiochi incerti che dopo... Glielo dico io statisticamente, 6. Gol, non so, però... 6 o 7. No, d'accordo, facciamo... Cioè, secondo lei andrebbe bene interrompere il gioco e affidarsi alla macchina? Secondo me no, secondo... gli attuali regolamenti nemmeno. Noi continuiamo a pensare che, essendo il calcio giocato da uomini, io continuo a pensare che essendo il calcio giocato da uomini fallibili, il calcio vada diretto da uomini fallibili ma capaci. Ovrebo e il suo assistente non sono, nella migliore delle ipotesi, non sono capaci, e quindi il problema è quello. Se andiamo a esaminare la partita di ieri sera, Ovrebo è uno dei rari casi in cui Ovrebo, l'arbitro e il guardalinea hanno commesso errori molto più gravi dei calciatori in campo. Perché se invece esaminiamo una partita normale e arriviamo alla fine e diamo le pagelle a tutti e calcoliamo quanti errori hanno commesso individualmente o singolarmente, in genere gli arbitri, perlomeno nel nostro campionato, salvo rarissime eccezioni, gli arbitri e gli assistenti sbagliano molto, ma molto meno dei calciatori. Chiuderei con Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buonasera, signor Granzini. Dica. Niente, io volevo dire sempre di ieri sera, della partita della Fiorentina, in quanto secondo me è talmente grosso l'errore, talmente riferito, insomma, ripetuto, che non posso credere alla buona fede. Io penso che la Fiorentina, lo so che lei questi discorsi non gli piacciono, che sono vittimismi, però se vede il percorso di questi due anni della scienza della Fiorentina, gli arbitraggi sono sempre stati, per ricordare l'ultimo caso, Girardino nella partita del Lione fu espulso senza nemmeno aver toccato. Quel caso lo ricordo, Marco, però la Fiorentina ha vinto le ultime 5 partite prima di ieri sera. Secondo me in Europa l'ha dimostrato ieri sera Ovrebo, se un arbitro non vuol farti vincere o vuol farti perdere, rischia anche di riuscirci, se uno ha il fegato che ha Ovrebo e, ripeto, la sua bandierina a destra. Quindi continua a non crederci, ciascuno di noi rimane della propria idea. Marco, grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.